stata una giornata costruttiva. Oh, e cosa hai combinato? Tutto fatto, ritirato, pagamenti, bonifici, farmacie, spesa, di tutto e di più. Anche a me, non mi dire a me, ho pagato tutta la cassa montessa, il condominio, tutto pagamenti. Sì, sì, praticamente i soldi come entrano escono, capito? Non... stessa cosa, condominio, eccetera. Sta raffreddando la pappa. Mi stavo guardando un po' di video dei placebo, come li vuoi chiamare, su YouTube. È un genere, non lo so definire, robetta così, commerciale, però carini, orecchiabili. E anche io c'ho un bel cassetto, capo, a guardare. Solo che con questo televisore non sta quando fa quel difetto, lo sai. Ci sta, sta partendo. Ehi, vediamo se non è in garanzia, no? No, ma addirittura quello è un televisore che avevo fatto gli studi della ESO. L'avevo fatto con i tutti. Niente, è andato sempre bene, non mi ha mai dato problemi. E dell'LG mi è buono. Però tutto quello che ha un inizio ha anche una fine già, non sono eterni. Sì, ma anche mai adesso con l'obsolescenza programmata. E, stavo rispolverando roba anni 80, Bronski Beat, quanta roba bella che c'è da ascoltare. Ma cosa c'hai? Finito? Cosa c'ho? No, io YouTube, sto ascoltando praticamente i video musicali dei cantanti. Quindi qualsiasi titolo metti lo trovi, certo non lo scarichi, è in streaming da YouTube. Sì, già lo so, anche io ci vado, metto la musica, mi sono comprato le casse grosse da 200 watt e poco dopo. Ma non è che c'è, se cerco Sassari in calciolina trovo anche quello, no? Certo che lo trovo, c'ho anche le canzoni di Sassari. Minchia, Farendi in Turritana, non so se esiste come titolo, ci scherzavamo con un amico, magari esiste pure come canzone. Bene, beh, comunque con questo fresco si può fare il tutto, esci volentieri, porca miseria, ma non come era prima era un incubo per me, un incubo, proprio. Sì, adesso si sta meglio, non c'è quel caldo a fuoco. Io. Allora, quell'antenna di fusaresca provenienza è la LEM AT 1231, LEM AT 1231. E come dicevo, era un'antenna che mi interessava perché era circa 1,5 metri, però poi, caspita, dalle prove che hai fatto non rende tanto. Però sono curioso di sentire la differenza tra la mia e quella, per esempio, o provare tu quella che ho io, così, per fare un confronto con quell'antennino solito, quello kit emergency. Anche quello lì va forte, oltre... va benissimo quella lì, mi ascolta tutte le parti. Quella lì è l'unica a mettere, se no devo mettere la turbo di lì. Però usare non c'ha la base, se no me la prendo. Ma la base magnetica? Sempre con magnetica la metteresti, vale sempre la sua, come per la mini, la base da 15, tutta bella metallica, non è plasticosa come le Midland, capito? Verniciata, credo, a fuoco, no? Sai, quella vernice tenace, scura. È così. Certo che, mamma mia, la turbo, sì, è bella, alta, però è lo stile, è persino più grosso di quella mia, è un po', mamma mia, certe volte beccando rami bassi potrebbe staccarsi, è capitato anche a me, di beccare rami talmente bassi da staccarsi la base. Naturalmente ero quasi fermo, no? Sono entrato piano piano e... è così, e ho sentito coricarsi l'antenna. È quello che temo io, se magari non ti rendi conto, anche quando vai nei garage sotto i supermercati, cazzo, di volte anche più caldo, è un casino. E poi non, mamma mia, nei supermercati non c'è che tocchi i cavi, centraline scoperte, succede casino. È una rottura mia entrare nei parcheggi sotterranei dei centri commerciali, ma cosa ti volevo dire? Niente, comunque ho visto le caratteristiche, un giorno ti faccerò delle foto, no? Di due antenne in teoria simili, no? La ML145 Midland e la ML145 della President, no? Tu devi vedere l'impressionante differenza di spessore della bobina, il filo di rame. Cioè la mia è dichiarata 400 watt, picco picco, quindi banda laterale, e con 100 in AM non ha alcuna difficoltà. Quella President c'è un filettino così sottile che uno con soli 100 watt di uso normale, praticamente si è fuso il nucleo di plastica che teneva la bobina, dove era avvolta la bobina. Poi tutte le balle che dette, allora l'hanno dichiarata 5 ottavi, bugia colossale, guadagno 6 decibel, bugia colossale, dice potenza massima 600 watt di picco, bugia mega colossale, perché ne sono bastati 100 continui per scioglierla. Capì? Marco, chiamami al telefono. Ya, un attimino, e così poi mangio, dai. Gianni doppio room, ti sei? Chi è che chiama? E me Marco. Ah, Lucariello, tu sei? Ehi, un attimino, siamo al telefono e poi io lo sto pranzando. Ti saluto Lu, forse entra Gianni. Dai, ci sentiamo quando capita. Chiata, chiata. Attenzione, Lucariello, ci sei? Ehi, aspetta un attimino, già, lo controllo se ho recuperato il CD, un attimo, aspetta. Oh! Allora, mi sei già. Ehi, che beghete! Dai, c'è un bel freschetto fuori. E lo so, ero fuori io, c'è tutto il giorno girato. Andato a pagare il condominio, a pagarmi la casa bombetta, e lui mi è andato a bombetta. Ero ribagato. E tu non ribagato, pure gli attacca. Addirittura a me, Luca, mi hanno chiamato 2 anni fa, mi hanno chiamato perché non risultava pagata la casa bombetta di un anno. Meno male che io le conoscevo, ci avevo la ricevuta, ci ho andato, l'hanno controllata, tanto ho dovuto perdere la mattinata di lavoro. Certo, ma comunque non gliel'hai pagata perché l'hai già pagata. Eh beh certo, ha dimostrato che l'ho pagata, ci ho avuto le ricevute, ma c'è gente che le butta via le ricevute, no? Io c'ho tutto conservato, tutto dentro le cartelle, c'è scritto Ever, Winter Paga, tutto conservato, tutto catalogato. Non cumaio, ehi Azzardo, c'è Antonio. Antonio. Riserva, chiamalo. Antonietta. Marco. Avanti. Ciao. Ascolta, ma non hai un controllo che ho messo l'antenna sul tetto? Mi ha messo 9.10, quasi 9.20. Grazie. Mentre prima era più basso, da Gianni. Poi bene. Prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 25. E prima quanto ero? Più o meno eri così, 9, 25. Cazzo, come fai a dire? Magari il baracchino si è da te. Devi controllare con un baracchino serio che abbia smitter grande. Se prima c'era l'antenna a 1 metro in terra, adesso è a 10 metri in alto, è sempre lo stesso segnale. Tu da 9.10, sì, 9.30. Oh, aspetta, metto giù piano. Ma se stai usando il baracchino non è molto affidabile, dai. Ci vuole qualcuno che abbia una radio grande da potermi dare un segnale, perché voi siete aumentati tutti. Adesso a 10 metri in alto, cioè praticamente vede tutto Sassari, prima vedeva gli alberi. Da te Luca, te lo ricordi quanto ero prima? Mi sa che di 9 qua. Già a 10 va bene, ma Gianni è sempre uguale, è possibile. lui è aumentato un bel adesso. E classico, stavo leggendo un messaggio, no? E comunque si è aumentato. E comunque non mi fate entrare lui. Sono andato, sono uscito, sono entrato normalmente come entro, ho schiacciato i mail, e mi dà sempre IS0, bim bum bam, Tiscali e tutto quanto. Vabbè, te lo porto quel computer, eh. L'ho messo a posto bene come Cristiano. Ciao, te lo sistemo io, non ti preoccupare che poi chiusi quelle mail e vedrai che non avrai problemi. Ehi, ehi, va bene, va bene. 9:30, Claudio. 9 più 30? Giusto, giusto? K. Col Galaxy si è adesso? Sì. Galaxy, è un Galaxy. Il Galaxy è Galaxy, già. Dice sì che va lo Smith in serio. Va bene, dai. Allora metto i tiranti e basta. Ok. Perché ho il computer con Luca. E si è incasinato il computer, quindi ho mollato tutto. Ma dove mi hai messo? Sul tramite? Quale tradizio? Sempre in campagna sono io. Ah, non pensavo che fosse un'altra dei carbonati, che la si sposta. No, quella va lì e rimane lì. E boh, ho messo bene l'antenna della 27 qua. Tubo a parete, fatto l'impianto come deve essere fatto, dai. Adesso è in alto, circa 10 metri. Devo mettere il tirante però prima ne caccia tutto. E si è messo a fare un buono nel barano. Io userei i bari che tratto io. Scritto da 40, tubo da un pollice e mezzo, se non sbagli. Tutto intero però, tutto intero. Capito? L'antenna è sollevata, praticamente è sollevata la terra, tutta intera. Tubo e tutto. Va bene, un tubo d'acqua da un pollice e mezzo, quindi non ce ne vuole neanche, ma per sicurezza le metto due piccolini, due da 6-7 metri l'uno, già va bene, giusto per il maestrale e per il libeccio che è più pericoloso qua. Cazzo, ho provato a chiedere un controllo all'alghero, 9 più 20 arrivo all'alghero. Ah, non faccio per carburante, più forte di già sei. Più libero. Mi vedo tutti, cos'erete? Tutti vi vedo, però Sasse, la Teroce, Sorso, Signori, tutta la zona di Platamona, tutto, ce lo giro davanti, cazzo, sto aspettando che entri, quello io ce l'avrei quanto mi arriva qua, cazzo, minimo mi arrivi 9:30, vedo tutto lo giro, la Sassari non si vede, io sì. Sì, va bene, anche la Sassari già si avvicina a Ugino, si avvicina a Scala di Gioca, a quella zona lì. C'è più vicino tu degli altri, là. Ma non lo vedo, lo giro io, la Sassari lo giro, non lo vedo io, capito? Qua ce l'ho proprio davanti, se cito l'imbara da qua, con i VHF, la Sassari non lo cito l'imbara, quindi è molto più aperto questo, molto più aperto. E la modulazione va bene sempre col Tanner, sì? Sì, sì. Ma sei attaccato? No, cosa attaccato? Un maggio lineare, no, che lineare c'ho io qua. Questo è il baracchino. Il baracchino quello di l'Elbex. Sempre l'Elbex. Questo è l'Elbex, boh. Non so se ci sono gli altri baracchini. Qua c'è solo l'Elbex e un VU e basta. Avanti. Eia. Eia, eia. Okay, come bene mi senti, Cla? 9:20 quasi sì. Eri 9 prima. E io quando ti arrivo a te? 9 più 30. Tante volte basta passare un ostacolo e decidere. E l'antenna anche se era piazzata, era a 2 metri da terra, cioè c'era un secchio di vernice con forato dentro, messo all'interno, un tubo, no, gettato però, no, il secchio, fatto l'impasto, fatto asciugare, messo al centro un tubo e poi messo un altro pezzo di tubo da 2 metri. Quindi è già troppo che andava. Adesso è a parete, staffata, tutto, fatto l'impianto normale come a casa. Ma questa qui, quella mia è questa che stai usando? Sì, non è la mia, sì, quella lì. No. Io ho detto la mia, quella che ti ho dato io, dai. Sto scherzando, sì, quella va tutto. Quello va tutto, sì. Se volete l'ho fatto boccolato, ho messo i radiali in fibra, quelli là, sempre. con le boccole nuove, quindi non ballano più, le viti nuove sotto, otto filettanti, tutto in acciaio, e poi ho messo la spirale nuova perché quella era rotta. Ho messo praticamente la spirale dell'altra che c'avevo là. Mentre i pezzi li ho tutti puliti con la tela e è uscita nuova, già va bene. La campagna già va bene. La campagna è più città, avanti chi è? Chi è che ha chiamato avanti? No, popolazione spagnola. Va bene Gianni, dai, grazie per il controllo e ci sentiamo. Grazie anche a Luca. Luca, ci aggiorniamo, ponessi pure che tra domani e dopodomani ti chiamo e te lo prendi quel computer e lo metti a posto. Ok? Dai, ci sentiamo. Che finisco qua, c'è anche che ha abbassato il vento, così metterò i tiranti. A dopo se ci siete, se no alle prossime. Ciao. Ciao Claudio. Ciao. Oh Marco lì, guarda il segnale a vedere se è aumentato, che ho messo l'antenna sul tetto. Allora, sì, 9 più 25 è spaccato, è simile al tuo segnale quando sei su a casa. 9 più 25 è spaccato. Diciamo che quando sei su a casa e metti qualcosa di più forte, vabbè, arrivi anche a 9.30. La radio, diciamo, non è proprio pulitissima, è appena appena sporca. Io l'ho chiesto se aveva linea attaccata. No, non ho io linea attaccata, se non c'è la potenza troppo alta della radio è perché è al massimo, quindi è a 15 watt, no, io la tenevo così, allora, ecco qua, così è a 8 watt, così ha migliorato. Ha migliorato così? Sì, sì, ha migliorato. Così è a 8 watt. Prima era 15 watt. È dovuta alla vicinanza, cioè siamo sempre a Sassari, siamo troppo vicini comunque. Ascoltate, avete udito niente di questi contributi per la ristrutturazione di casa? Mi hanno messo la pulce nell'orecchio, avete sentito nulla? Sì. Guarda che c'è nel sito della cosa, adesso non mi ricordo, stavo guardando, sì, 110% quello lì, sì, nella sensa dobbiamo fare tutte le capottine dei primi piani praticamente, piani pilotti, cioè il 110%, dai, con gli sgravi fiscali. Però leggi bene perché non ci sono alcune ristrutturazioni, non tutte le ristrutturazioni, che all'interno non lo so, mi pare che siano facciate e altre cose. Infatti adesso devo chiedere bene perché molto probabilmente faccio qualcosa anche io. Sì, le cose condominiali io stavo parlando con il capo condominio l'altro giorno. Sì, sono restauri condominiali, per quanto riguarda i singoli c'è qualcosa ma non è il 110%, Marco, leggi bene comunque, c'è un sito particolare che stavo leggendo, adesso mi ricordo qual è però. Mimino spagnolo, ehi, metto le parole chiave e cerco, dai, è troppo bello era, se no mi facevo la casa come in casa Monica, ti ricordi? infatti, può essere. Ascolta, ho abbassato ancora, ha migliorato la radio? Non noto differenze, Cla, ti devo attenuare, dai che ti attenuo, così ti do un segnale audio più pulito, vai. No, ma l'importante è che sia pulita la radio, perché io lineare non ne ho. Ho messo da 15, adesso ho messo 8, poco fa, adesso sono a 6 watt. A 6 watt così, va bene? Ehi, vabbè, poteva essere un po' migliore, ma può darsi che sia la timbrica stessa della radio, Claudio. Comunque attenuato migliori, è questione di vicinanza, Claudio. Ok, per il resto capibilissima, ottimo per la truppa, dai. Mentre così a 5 watt invece, guarda se ha migliorato qualche altra cosa, per capire, perché voglio che sia giusta la modulazione. No, al mio orecchio no, Claudio. Poi sai così, io avevo fatto l'orecchio a quello buono, al K, quello è non plus ultra, quindi io mi baso sempre e faccio il paragone con quello. Comunque non ti fare paranoia, è capibilissima, magari a Mega non piace come timbrica, è come leggermente compressa, leggermente, non saprei come definirla, già, tu come la definiresti? Sì, glielo ho detto anche poco fa, gli ho chiesto se sembra di viene attaccato, però adesso ha migliorato, il confronto prima ha migliorato. La sentivo anch'io compressa così. avanti, ho detto cosa c'è, mi era attaccato, mi ha detto no, perché la sentivo un po' compressa, e poi ho detto ma magari sono io che la sento così e basta, non devo più. No vabbè, no vabbè, non so, non lo so, questo adesso da 15 watt che modulate da 18 sto andando con 5 modulati 7-8, così, in questo passaggio adesso. Questa sembra un'altra radio, questa è già migliore. Poco fa era la massima potenza, siccome questa radio è stata tirata, questa radio da in banda laterale da anche 30 watt, 25, qualcosa del genere, non so se era così. E c'è il potenziometro della potenza che io quando lo metto al massimo in AM mi dà 15 watt di portante e 18 modulati come poco fa. Adesso l'ho messa a 5 watt di portante, modulati sono 6-7, capito? Quindi sicuramente ha migliorato per quello. Sì, poi dipende che finale c'ha Claudio, certi finali un po' più di tanto non li puoi tirare perché cominciano a sporcare la radio. E come faceva Pomponio, ti ricordi con quel Connex 4000 Echo? E lui era fissato, voleva 8-10 watt, il finale era singolo, e praticamente lui preferiva avere 10 watt e uscire saturo anziché averne 4 e uscire limpido. E glielo avevo detto tante volte. Va bene, ottimo, dai, finisco qua di ruminare. Dai, vi saluto. Ciao a tutti. Vabbè, mi è arrivato un messaggio, piacere ascoltarti, però sei compresso, non riesco a capire questa compressione, vabbè. No, vabbè. Abbassiamo la potenza, ancora, vediamo, ecco qua. Allora, così non sono più compresso sicuramente, chi va giù 3 watt. E più abbassi più migliora Claudio, eia. E cos'è quello finale di quelli vecchi? Non è MOSFET, no? È apparato Elbex, sarà di quelli vintage, è un 4082 vintage, però adesso l'ho messo a 3 watt e modulati 8 addirittura, quindi sicuramente non è più compressa adesso. Claudio, se un po' qualcuno ti ha detto ma cosa compressa non compressa, fallo vedere avanti. Ok, avanti che ha detto compressa e compresse. Stanno parlando? Lo sento basso, chi sei? Non ho capito. Ah, già, buonasera, ben ascoltato, già nel dischetto. No, vabbè, a distanza sicuramente migliora, però adesso ho messo la potenza minima. 3 watt modulati quasi 7, quasi addirittura 8, non dovrebbe essere più compressa, Gianni doppio room. No, commenta adesso. Oh Gianni discreto, buonasera, dove sei? No, non lo so dove. Dov'è Sparviero che tu ti stai guardando lì? Non ho capito, dove? Rio, come si chiama? Rio? Che te farà? Vabbè, no, non lo so. Va meglio ma non sei tu, ma devi abituarti perché sono io così, e buh. No, non ce ne sono più di Kenwood, di K e di balle varie. Per fare due chiacchiere va bene anche un baracchino. Ok, dai, io vi saluto, grazie dei controlli, grazie di tutto e ci sentiamo alla prossima, ok? Vai doppio room, ciao Rischè, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, dove ci sentiamo? Avanti! Avanti Marco! Eia, ciao Claudio, sì, in distanza migliorerà sicuramente, poi come ho detto poco fa, attenuando ti migliorava comunque, attenuando con la rifeghina a zero. Bene, e Luca, è rientrato Luca o sta saldando, facendo? Non lo so, così un watt e mezzo modulati 5, cosa già? E buono, non so, ehi, già, no vabbè, più di questo non posso abbassare, evidentemente devo fare ancora dei controlli, dai, comunque lascio stare così. Va bene, vi saluto a tutti e ci sentiamo alle prossime, grazie dei controlli, ciao. Ehi, ciao. Oh, dischetto, sì, ma sei tutto grande il sacro, mamma mia, forse c'è troppo impatto in entrata. Ma tu sei in giro adesso, sei in macchina. Ma non sei lì a Rio Marmo, no? no, già ti sento Massimo Costato, molto compresso, forte, si capisce a malapena. Sì, arrivavo più basso di segnale, ma è più chiaro, si capiva meno. No, quello lì è l'entrata dell'apparato, secondo me, che è sbagliata. Vedi, però è poco in basso d'entrata. E dov'è? Eugenio! Ciao Eugenio, e allora? Sempre Girella, sì, non ti abbiamo più sentito. E vabbè, fai bene che si diverti, dai. Gianni Dischetto, E cosa ti dico? Sempre le solite cose. Ogni tanto si entrerà, adesso lo da un po' che non entra assiduamente, dai, ce l'ha con cagente. Ciao Gigi, ci sentiamo, buona serata, ciao. Io, ciao ciao. E anche io adesso vado a portare giù il cane, dai, per non fare di giù. E io, ciao a tutti, dai. Ci sentiamo le prossime. Ciao Marco, hai finito di mangiare? Sì, sì, che poi sai così, io sembro mangione, ma in realtà mangio molto molto piano. E poi mangio poco ma spesso. E se mangiassi molto e spesso, addio, diventerei un aerostato, l'omino Michelin. Tu sei come i gatti, mangiano a piccoli dici, se sarei. Comunque ti dico già, ciao Eugenio se mi copi, tanto non mi copia. Che forse ho il metabolismo alto, perché sarei dovuto essere più grasso, nonostante non sia un mangione, sarei dovuto essere più grasso. Mamma, io penso a quelli obesi, quelli da 300 kg, non per roba ormonale, no, ma per che ingrassano per il cibo, ma quanto mangiani? Sono quasi tutti americani. Ma che fanno, mangiano quei panini con gli hamburger che sono siciliani, fanno a 4-5 strati. Sì, ma cavolo, cioè, non credo che non sia umanamente possibile, eppure succede. C'è proprio quelli che addirittura uno in una puntata di, cos'era, Dottor House mi pare, hanno dovuto smurare una finestra per calarlo giù in una specie di gru, letto e tutto, perché non poteva muoversi, una cosa impressionante. No, anche non ti passava dalla Iana, già l'ho visto, Non passava dalla porta, i pompieri sono andati. E magari l'hai vista, siccome stanno dando puntate di House, no? Di sera o pomeriggio, adesso non mi ricordo bene, forse tutte e due. Bevellina quella serie TV, poi anche dottoresse, anche il capo del reparto, no? Come si chiama? La direttrice, la Caldi, mamma li turchi. L'hanno un programma su di Max, mi pare, o su Focus, no, su di Max. No, questo programma la sera, dove c'è questo dottore che cura appunto queste persone qua, che è avanti, Santiago 5 e Radio 2, dove sei Riccardo? Che sì, più mai, ma è bianca e vetro rigido. Ah, buh. Ma la fine è uno, non vi ne alza. Anche qua è 5 è molto quarremato, però, perché ho quarreme un po' di disturbi elettrici cittadini. Sta venendo la sonnolenza. E aspetta la biocco adesso, fra un'oretta mi infatti faccio il caffè, eccetera. E io, vabbè, già io spone, sono in movimento da stamattina. Guarda adesso Gianni, mi senti? Un po' stanco, adesso mi accendo la TV, mi guardo qualche cosa mia, non lo so, DVD, quello che c'ho. Oh, guarda adesso già. Aspetta che non ci vediamo. No, la radio, lascia perdere il segnale, non mi interessa, la radio ha migliorato. Sì, la radio sì. Molto. Ok, dai, va bene, quindi la taratura giusta è questa, va. Devo lasciarla così, la stavo portando a 25 watt, invece la devo lasciare a 12 watt, dai, va bene. Quindi la radio è chiara adesso? Sì, adesso. Sembra un'altra radio. No, no, Marco, sempre questa, sempre quella lì, dai, va bene. Allora lascia dove ci fate, dai. Non va bene portarla a 25 perché altrimenti si attua. Ok, grazie ragazzi, a dopo se ci siete, ciao. Ciao, ciao. Avanti Marco. Io dopo mi seppellisco nel letto, bello, con la TV, con la bibita fresca, cosa vuoi di più? Mi guarda un po' di roba in TV, film, vabbè. L'altro giorno hanno dato quello di Quentin Tarantino già, non so se tu sei un fan, quello ambientato nel Far West, dura 3 ore, 2 ore solo di dialoghi, Gesù Maria, fino allo sfinimento, poi succede tutto alla fine. Mi sa che non sei un fan di Tarantino, tu dai. No. Stavo leggendo la cosa, ma ero fatto. Stavo seguendo. Ui, roba di femmine deve essere me. Vecchia volpe. Adesso come vado? Che differenza di segnale, abissale. Vai Ricca. Addirittura, come sta arrivando? 9 più 15, un bip doppio, modulazione, fammela sentire, a lungo. Vediamo cosa ti sembra, ho appena cambiato un microfono dell'Alan, l'F16, volevo vedere come stava andando. Vabbè, forte, no? Non pulitissima, dovresti allontanarti un po' dal mic, Ricca. Ok, adesso cosa sembra? Va un po' meglio? Sì, è meno forte, ma prima eri così, mi come se poi lasciavo attaccato al mic. Marco! Oia! Non ce l'hai tu, non ce l'hai più WhatsApp? Certo che ce l'ho. L'ho reinstallato appena mi hanno ridato il telefono, che peraltro sta dando problemi diversi adesso. Capito. No, perché ti avevo mandato una cosa, però no. Direttamente ho sbagliato io, là. Va bene. Ti avevo mandato quelle barre, te l'avevi visto? Sì, barre. Quello è il numero del solito mio. 377-097, eccetera, eccetera. Io l'avevo visto su internet però il barret, con l'azzurro stai dicendo, no, con la cornicetta gialla. Ehi, no vabbè, la foto ti avevo mandato. Va bene, ok, dai, continuate che ho finito, adesso mi do una sciacquata e poi mi dedico ai cani. Ci accentiamo dopo se ci siete, dai. Dai, io ti vedo in lista e in elenco ci sei tu tra i contatti magari non attivi e c'hai Filippo nella foto, no? Nel profilo. Ehi, ma molti li ho eliminati. Molti su WhatsApp li ho eliminati. Eliminati, bloccati, ma quelli che ho bloccato li ho già eliminati, dai. Però stavo mandando una foto a te, sicuramente ho fatto casino, dai. Adesso te la rimando. No, per fartelo vedere dal vivo, proprio quello che c'ho io, capito, il barret 950. Che penso non ce l'abbia nessuno in provincia di Sassari con la radio. Io e Gianfranco ce l'abbiamo, beh, lui c'ha un modello più nuovo del mio, però. Ma c'ha una ricezione in HF, Marco, allucinante. Allucinante, pazzesca, perché c'hai i filtri molto stretti, capito? E quindi è per quello. Va bene, avanti già, riprendi. Sì. Sono un radio che non è che ci abbiano. Ci sono abbastanza rare, dai. Cioè io manco la conoscevo, mi ha fatta conoscere Gianfranco, figurati. È enorme. Presso un veicolare molto molto grande, molto grande. Sì, molto più grande del Magnum, anche più grande del Cobra, molto grande, poi c'è un bellissimo frontalino tutto illuminato, però non c'ha pomello di VFO, ho capito. È tutto elettronico, tutto. Ci ha provato a mettere, c'è anche il GPS, c'è il DMR, praticamente tutto digitale, ti segna 287 metri a livello del mare, sono più conta 50 metri il palazzo, è alta la zona di quello di Carbonazzi, perché l'ho provato lì a Carbonazzi. Va bene, come radio l'ho provato e c'è molto bene, solo che se metto il microfono non posso metterlo da un'altra parte, quindi devo abbinarle un altro tipo di microfono. Dai. Vabbè, poi vediamo se trovo qualcosa da abbinare. Ok, avanti, riprendi tu Gianni e fai girare, dai. Marco mi sembra che stia andando a mangiare. Io mi sistemo i cani, poi al limite ci sentiamo. E allora non ci faccio male, ma tu via, chi è rimasto? Chi c'è, Eugenio? Ehi, Eugenio c'era. Ma il gatto l'ha attaccato sicuramente. Eugenio, sì sì. Certo, manco in tempo a salutare la Giovanna, adesso poi si sente in dilo, vabbè, io sto entrando poco. Ma poi adesso d'inverno già ci si risente, se mi viene un po' la voglia, se no pazienza. Dai già, ti saluto, grazie dei controlli, sia a te che a Marco, quindi mi confermate che lo lascio, lo devo lasciare così a 12 watt, dai, di più non si può fare. No, la verità è già che ce l'avevo aperto, e siccome mi avevo detto si poteva portare sino a 25 watt, ho provato a portarlo, però come hai visto satura. Allora l'ho riportato a 12 watt, capito? Questa è la pura verità. Per quel signore che sta ascoltando con le orecchie di porco, che ogni tanto mi manda i messaggi. Va bene, ok, quindi l'ho rimesso a 12 watt e più di questo non si può dare, dai già, se non satura. Va bene, ok, quindi sappi che lineare non stavo solo giostrando con trimmerino che c'è della potenza. Oh, io mi ricordo quando ce l'aveva Pinangelo, cazzo, ce l'aveva a 25 watt. Ecco, infatti Pinangelo quello lo usava perché diceva che non prendeva strada. Cioè aveva nella sala quello lì per fare il capuffo e invece in cucina ci aveva il cazzo sotto l'armadio. Già me lo ricordo, già me lo ricordo. E c'è un microfono anche suo. Quel microfono tipo dai, quelli da cantante, c'è anche quello lì. L'ho provato ma non esce bene con la mia voce. O si è rotto, non lo so. E allora gli ho messo tranne più 3B, che è quello di Massimiliano. Va bene, dai, allora ti lascio. Ricordati che sono le 8:10, quindi anche tu fra un po' ti organizzare, perché le giornate si stanno accorciando tantissimo e non voglio uscire al buio, dai. Ehi, è vero. No, ma Pinaggio lo usava con le... Cioè, il mixer, capito? Lo usava col mixer, no. Ehi, hai ragione, lo usava con quel mixer, ne fatti un poco di casini. E faceva un po' di rumore, faceva... Ci giocavo bene con quel mixer e usciva bene in radio. Infatti non so se te l'abbiamo dato a te, ma c'è anche il mixer. No, non mi ha dato mixer, mi ha dato solo il microfono e il baracchino e basta, non mi ha dato altro già. Vabbè, va bene, dai, l'importante è che esca bene già. Gianni o altre radio, però questa esce molto bene con questo microfono così a 12 watt, anzi al massimo della potenza 12 watt, non sta saturando, quindi lascio così. Va bene così, lasciate così, non tirare troppo, magari sposta troppo i finali e ti porta all'ultima. Andare, io ho comprato l'antenna da usare, la cosa, la lepre quella con la base magnetica attaccata. L'ho provata a casa da due distazionali, due da alti e da due, da bassi e da due, no, ma la sola andata te l'ho detto. Già, io però ti devo dire una cosa a te, a base magnetica, centro capota, in quella macchina, tu lo sai che la lamiera è diversa, sì, la lamiera di quella macchina, come la mia, perché anche la mia fa lo stesso difetto, tanto è vero che io non agio molto più, ma anche in VHF mi creava problemi stazionari, perché sono zingate, sono lamiere zingate già. Capito, non è più ferro come te prima, la miera di quelle che ci avevamo prima, tipo quella che avevi tu. Capito? Le macchine di adesso, o di 5, 6 anni, 7 anni fa, c'hanno la miera zingata. Hanno la miera zingata, e la tua ancora di più. È una macchina molto protetta dalla miera, quindi è zingata. Sicuramente è che lì il problema. sicuramente lì il problema, base magnetica. Se invece magari buchi, allora è diverso, le metti sotto il rondellone, eccetera, allora è diversa. Però quella ti crea sempre problemi già, perché lo fa anche nella macchina di un mio amico, dai, di uno che conosco, che è simile alla tua, e non li buca bene con l'antenna del baracchino. No, parla Claudio, l'antenna che io ho venduto a cosa, come cavolo si chiama, per la mia, quella lì l'ho portata a 1 euro di stazionale, e sul canale 40 ci aveva 1 e 2, quindi sono riuscito a regolargliele bene, tirandola, passandola, mettendo 1, 20, 40, e l'ho tarata bene. Infatti esce bene, il lupo grigio, ho visto come esce. Sì, l'ho visto. Ho visto il segnale, ho visto anche come esce di modulazione, però se non portate le va molto bene. Va benissimo alla grande, già, non lo so. Questo che conosco io non li può capire. C'ha la Giulietta, e non ne toglie piedi. Non ne toglie, cazzo, la macchina che avevo, l'antenna è sempre la stessa, non l'ho mai toccata, base magnetica c'è 1,1, la metto qua e c'è 1,8. Ha detto, che non c'è la cappotta, che è troppo, come si dice, coibentata, insomma, molto, capito, le macchine di ultima generazione. È un casino, quindi magari non fa bene massa, non ha un piano di massa giusto, non lo so, perché può essere anche quello, vabbè, ma se tu mi stai dicendo che l'altra andava bene, allora è un problema di antenna. Vabbè, già, ma tratta robot tattilino, già va bene. Buonasera a tutti, prego. Più buona, capito? Perché anche col contatto dici bene, c'è l'antenna buona, c'è l'antenna di luce, da tubo 2001 mi metti. Ecco. Ehi, va bene, c'è qualcuno che ha detto pronto, vabbè già, io ti lascio, dai, ci sentiamo magari in altre occasioni, grazie di nuovo dei controlli, alle prossime, avanti, che vuole entrare QRT per me, dai. Papà, quel tipo di base magnetiche lì, me l'ha venduta pure a me, praticamente ho scoperto una cosa, che quando le metti quel cavo di protezione non mi faceva massa bene a me. È successo a me pure, con una base magnetica. Invece l'altra che c'avevo, quella della Sister, non mi ricordo come cavolo è, quella pompava bene, quella andava bene. Capato, via. E con che baracchino stai scendo adesso? No, quello normale, il Zeus, l'Alfayette. Ah, perché la radio ha cambiato notevolmente. Antonio si deve mettere l'antenna sul tetto, Claudio, se non te ne sei andato via. E dove sei già andato via, però là, ciao Claudio, se ascoltato ancora. Comunque, ce ne ha, mi ho chiesto stasera, ce ne ha due tipi di cose, di antenne per il tetto, Antonio. C'è quella che c'ha un il radiale e quella che ne alimenta. Non so, già mi sembra la Superlem, già. Questa è una bestia, Ehi, quella lì va bene, le ho fatte prendere io, le ho ballate da me, vuole prendere di antenne, ce le ha tutte vendute, tranne quella, come si dice, quelle due, le ha tutte vendute, quelle che mi ha fatto ordinare io, ci ha venduto anche una boomerang lamp di quelle, del radiale 275. E la boomerang grande avrei voluto mettere, secondo me la boomerang grande viaggia. Sì, va bene, tu, ma quelle antenne lì ce l'ho più performanti, inutile, se tu vuoi un'antenna come ti ci tocca, non la dovrei più da tu. Per il momento, tengo questa e mi sono pure un pochino, troppe spese. Adesso appena che mi riprendo un po', cazzo, la faccio piazzare grande e basta. Ma se tu hai qualche soldo, ti conviene prendere l'antenna, poi quando hai il tempo la piazzi. Adesso non posso assolutamente. C'ho tante spese, già, sta succedendo lo stesso per adesso, che non mi intendi 9,50, mi intendi 9,20 e basta. Sì, infatti va bene lo stesso, però l'apparecchio preferisco l'altro, te lo devo dire. E vabbè, anche questo vuole utilizzato, è normale. Questa è la voce Vito Phoenix. Qual è lo Zeus? Ciao Antonio. Ciao, qual è lo Zeus? No, non va bene. Sì, Gianni, praticamente il clone, o meglio il Polmar ZX40 è il clone del Zeus, solo che ha l'estetica dei tasti più spartana, più economica. Per il resto è uguale. C'è il quadro, quello come si chiama, argentato, non nero, quello di colore non argentato, no, tipo quello dell'argento. Ah, tu ce l'hai così, non nero. No, l'ho voluto così io. Sì, sì, che poi era la stessa che aveva Rattalino, ZX40, Zeus, siamo lì. Era una durazione un po' così, però funziona, che dire, è pure omologato, pure a norme CE, gioco di più. Certo che funziona. Vabbè, non vi va bene, non va bene come modulazione. No, già si capisce, è un po' barattolosa, ma si capisce. Dai, riprendete che sono all'ascolto, sono in pieno abbiocco, dai. Cazzo, dai, aspetta un attimo già che cambio, dai. Marco, cosa è cambiato? Spacciato? Facciamo rubare a Chino, eh sì. No, a Marco, a giudizio, se c'è un spacciato. Altro un vizio di chiusura. Oh Gianni, ma il cane l'avevi portato o non ancora? No, non l'ho portato, l'ho portato. Sono in Puglia ancora. Poi devo rilasciare il Puglia, sono tutto il giorno che corro. Il fisico volle di gente, quando stai tutto il giorno a Bettone, è andata via. Sì, ma chi sei tu? Hola. Ma ti ho riconosciuto. Ancora se va meglio questo già. Questo va meglio, ragazzi. Antoine Reserve di Cadotta. No, è il mitico 550 Power, cavolo. Chiappa. Sì, Antonio. Siamo qua, ma io tra poco devo andare a portare giù a Taizio, quindi da un po' vado via, dai. E tu che non ti sei più fatto sentire. Tu che sei parlato? Bombolo non ti sente, credo, perché c'ha una bazooka sul tetto. Anto, lo senti Antonio Riserva? C'è la mia sessantenna, ma gli hanno detto che la una volta che c'aveva problemi la sua. Bombolo. Sì, avanti. Inteso è Bombolo, che in tanti anni non è riuscito mai a ascoltarti. Bisogna migliorare la situazione, lì dai. Vai Gianni, che sto attaccando quell'obbrobrio di ZX40, non lo accendo da mesi, da pre-Covid. Adesso poco, il sistema si fa sentire, ragazzi. Mia, tu le piatti che anche nessuno durante nel baracchino. Io sono che lei. Che fai questi lavori, visto che... No, ma non è piatta. Vabbè, sì, a Luca o a Vittorio, ma da lì, a Vittorio. Ma Luca se no non ce la faccia, lì, è grosso, rapido, quindi senza tegole non si fida. Fatemela da solo piatta, ci vuole una mano, gli ha bisogno di una mano, qualcuno gli dia una mano, no? Per tirare sul palo, tutto quanto ci vuole qualcuno. Sì, vabbè, quando quella dovrà piazzare già vediamo in busca di qualcuno, va. E via. Allora già che ci sei. Che mi chiamano Cemiac, come vieni da me. vabbè, là, si scherza, che se no bisogna piazzare, sempre di mal uomo. Vabbè, certamente che sì, Antonio. Sì, dimmi. Peccato i pointi di incontro, invece non devo già per gli guarda. E qualche maniera faremo già. Ah, si trova qualcuno, dai, che si fa questa così. Ecco l'apparecchio da 13. Che era Marco, chi è? Sì, lo senti, Polmar ZX40, alias Lafayette Zeus. Vabbè, gravate su modulazione. Per dire, omologato uno, omologato l'altro, eppure questo è progettato per uscire male. Ma Polmar sono proprio veramente dei degenerati. Sì, sì, guarda che c'è una capsula infame, c'è una persona che gli ha cambiato solo la capsula condensatore con una un po' più grande e ha cambiato dalla notte al giorno, ha migliorato tantissimo. Eia, solo che qua ci sta, non ne vale la pena per un apparecchio del genere, nemmeno di cambiare la capsula. Infatti l'ho fatto nell'armadio in fondo, lo uso come piedino dell'armadio grande a quattro ante. E poi un armadino della punta, chissà del ciccio bello, è andata a vedere. Bombolo. Chi è che sta là? È manda laterale. Ogni tanto ci sono assenze. Via! Provo a vedere in FM come va quell'apparecchio. Vuoi sentire in FM? Proviamo, dai. Ce l'hai? Chi ce l'ha a parte in FM, dai? Senti? Prova, 1, 2, 3, prova, minchiofono, prova. Così è sempre un pochettino strano. Ci siamo? Eia che ci siamo già. E voi come mi sentite in FM? Benissimo. Adesso sono con quel base che ti ho mandato le fotografie, quello che ho fatto messo le luci blu. Cazzo, mi arrivi il doppio già. Sei molto, molto più forte, sei. Cara gara. E vabbè, aspetta. Avevo attaccato perché ce l'ha portato. Sì, non è male in FM, vi sento tutti bene. KK, questo qua è l'Intecret, K. Quello è. Vabbè. 497 luci blu. Io non lo volevo dire, per privacy. Ah, non c'è nessun problema, è omologato, puoi anche dire. Pure omologato. Certo, è omologato CE. Che culo che c'hai? No, anche questi sono omologati. E anche omologati, neo. Oh, perché quello volendo può avere anche, volendo, mille canali. Ma lo so, me l'hanno detto, ma lo lascio così come originale. Così omologato, nessuno mi può di nuda. Oh, già bene, già. Cava. Non è un bel apparecchio, a me piace. Però c'è un pochettino di alternata, non capisco perché. Alternata? Voi lo sentite l'alternata? È una ventola che c'ho. Sì, una leggera alternata. Però ho dovuto attaccare l'orecchio all'altoparlante. Aspetta che lo uso invece che a 12 a 220. Ah, che non sia l'alimentatore interno. Antonio, c'è in FM? A voi che ci sono. No, l'altro, riserva. Io sto usando quello esterno, la sto usando a 12 volte adesso. Prova. Uia, non ci capiamo. Se non mi lascio di nuda per fare i gozzi, aspetta. Adesso ce l'ho a 220. Come sta andando? Così a 220 invece che a 12 volt. Bene. Va bene così, c'è alternata, niente? No, ma che... una bombetta va già. Questo si può usare con due...